Storielle. Storiacce di Raffaella Calandra. In nome del popolo italiano, il Tribunale di Genova ha pronunciato la seguente sentenza. Visti gli articoli 533 e 535 del Codice Procedura Penale, dichiara Canterini Vincenzo responsabile dei reati sub F e G, limitatamente a quanto attestato in ordine alla resistenza all'interno dell'edificio, nonché del reato di cui al capo H, assolve Lupe Di Giovanni, Gratteri Francesco, Nicera Massimo e Panzieri Maurizio dai reati loro ascritti perché il fatto non sussiste. Caldarozzi Gilberto, Ferri Filippo, Cicimarra Fabio, Dominici Nando, Morto la Spartaco, Di Sarro Carlo, Mazzoni Massimo, Cerchi Renzo, Di Novi Davide, dal reato di cui al capo C perché il fatto non costituisce reato e da quelli di cui ai capi D ed E perché il fatto non sussiste. Per udienza e tolta. Finisce così, a distanza di 7 anni da quel G8, con 16 assoluzioni e 13 condanne, il processo di primo grado per l'irruzione alla scuola Diaz. Finisce con la Corte che velocemente lascia l'aula bunker del Tribunale di Genova e con le grida di disapprovazione delle parti civili. Finisce con 35 anni di reclusione in totale, dati dai giudici, rispetto ai 108 chiesti dai PM per quella che avevano definito la pagina buia della democrazia italiana. In attesa delle motivazioni della sentenza, il processo finisce soprattutto con, da una parte, l'assoluzione in blocco degli alti vertici della polizia, dall'altra la condanna solo per i cosiddetti operativi del 7° reparto sperimentale antisommossa, guidati da Vincenzo Canterini, che adesso dice «sono un capro espiatorio». Chiederanno di rinunciare alla prescrizione gli agenti che quella notte del 21 luglio 2001 a Genova c'erano, perché troppo forte, dicono ora, è la delusione. Una delusione duplice per Luigi Fazio, che dopo quei fatti la divisa ha deciso di abbandonarla. Vergognosa in generale, che il processo di Genova si sia fermato a Luigi Fazio, insomma, sono proprio ridicolo. Sono andato via dalla polizia, che sono andato via deluso, proprio deluso, ma cioè, questa non è la mia polizia, questa non è la mia polizia. Ma non mi identificavo più in questa polizia, dottoressa, non fa parte della mia, io me ne vado, non è più il mio habitat. Quanto tempo dopo il 2001 lei ha lasciato la polizia? Il 2004, io sono andato via a aprile 2004. I fatti di Genova quanto hanno pesato nella sua decisione? È tutto Genova è stato, dottore. È stato tutto Genova che mi ha fatto andare via a me. Perché io fino all'ultimo giorno ho lavorato. Io quello che non riesco a capire, com'è possibile che alla fine di tutto questo i funzionari con 10, 11, 12, 13, 14 capi di imputazione oggi sono stato assolto. Il potere operativo ce l'ha il funzionario che dispone, oppure potere dirigenziale. Io sono rimasto deluso dall'operato di quella sera per quanto riguarda la PG e deluso dall'operato della G, della magistratura, con queste condanne. Quindi sono stato due volte deluso, due volte, non solo una volta. Si è intrecciato Genova? Sì, sì, via Genova, sì, sì, ci sono gente che si infettano. Vedi se ci sono dei feriti? Polizia? Senta, quindi c'è mia moglie che c'è la polizia. Si stanno suonando di brutto, sono sotto. Dove? Dove c'è il centro, cos'è, il forum? Sì, sì, sì, sapevamo già, grazie. Quello è un macello, eh? Ok, grazie, sapevamo già. Lo sapete che hanno attaccato i ragazzi qui della scuola Diaz? Hanno attaccato i ragazzi qui alla scuola Diaz. Le registrazioni delle telefonate con le richieste di intervento alle sale operative di quella sera e i ricordi di chi quella sera c'era. When they arrive, they only break my arm. I saw lots of blood and lots of other people much more injured than me. Avevano rotto un braccio, una gamba, 10 costole e avevo la testa come una palla di rugby. Chi fu pestato quella notte, giovani, anziani, italiani e stranieri, ora amareggiato si associa a quanti invocano una commissione parlamentare d'inchiesta. Non ci crede invece e dispera sul fatto che si riesca a fare davvero luce l'ormai ex poliziotto Luigi Fazio. Il giorno della sentenza che lo avrebbe condannato ad un mese non ha voluto esserci, facendosi poi raccontare tutto dall'avvocato Diego Perugini. Quando noi siamo arrivati già c'era personale all'interno, perché tant'è vero che noi non riuscivamo neanche a parcheggiare le macchine, ci siamo dovuti fermare per le troppe macchine delle forze dell'ordine che c'erano già arrivate prima di noi, ci siamo dovuti fermare circa 700-800 metri dalle due scuole, quindi immagino un po' quante forze dell'ordine già erano arrivate prima di noi. Io parlo come personale della squadra mobile che c'ero io, che stavamo a via Pre. Saranno state decine di auto. Decine di auto è poco. Secondo me, solo noi ne avevamo quattro di macchine. Immagino solo Roma aveva quattro macchine. E lì c'erano tutte le squadre mobili. Presumo che siano state un centinaio di macchine, perché non si può, con 10, 20, 30 macchine, non si possono occupare 600-700 metri di strada. Le macchine erano molto di più. Poi è chiaro che ogni macchina poi portava da un minimo di 3 a un massimo di 5 persone dentro. Per esempio io, dove ero io in macchina, eravamo in 5, come personale che in quel momento è dovuto intervenire, che poi non so come l'hanno deciso, perché io, avendo fatto 20 anni di antiterrorismo, devo dire che io un'istruzione in quelle scuole quella sera non l'avrei fatta. La tensione era talmente forte, sia da una parte che dall'altra c'era tensione, e quando c'è tensione questo tipo di irruzioni non si fanno, a meno che non ci sia a priori un ottimo servizio di intelligence che dà la certezza delle cose. È stato un errore farlo. Noi stavamo a via Pre. Da via Pre ci hanno fatto salire subito in macchina diretti in questura, i funzionari sono scesi e sono entrati dentro, quindi avranno fatto una riunione, non avranno parlato, non lo so, perché a noi non ci hanno fatto entrare, il personale è rimasto tutto fuori, tutto il personale della squadra mobile, solo i funzionari hanno partecipato a questa riunione. Dopo questa riunione sono usciti, dobbiamo fare un'istruzione in una scuola. Arriviamo lì, dico, quale istruzione facciamo? Parlando con i colleghi, i funzionari appena scesi si sono persi di vista, lì non si sapeva chi era di Roma, chi era di Milano, chi era di Napoli, c'era una confusione totale che mai in 35 anni di polizia non ho mai visto. Ogni funzionario deve gestire il suo personale. Non avevate avuto, diciamo, delle indicazioni? No, è stato un intervento operativo. Secondo me lasciate ai singoli, nessuno ha detto nulla, tant'è vero che lì gente che scavalcava la Pascoli alla prima vetrata, che rompeva vetrate, dico, ma che, cioè, io ho pensato, dico, ma succede tutto questo, dico, santo Dio, ma chi c'è dentro queste strutture, che poi non sapevo neanche che era la Pascoli, che era la Diaz, dopo mi sono ricordato. Perché poiché ho lavorato a Genova negli anni 70, appartenente all'antiterrorismo di Roma, all'ufficio centrale UCI, che adesso è UCICO, prima era antiterrorismo e basta, quindi conoscevo Genova perché avevo lavorato quando ci fu il sequestro Sossi. Certo. Conoscevo la zona, dico, ma questo, dico, santo Dio, sono scuole, dico, ma che ci facciamo qua? Però c'era una marea di polizia, ma una marea, è inutile che loro vengano a dire 50, 60, 40 persone, perché non è possibile. Mi devo spiegare come mai quella strada era piena, che noi non abbiamo trovato parcheggio con le macchine, con 3 macchine, era una colonna di macchine. Il primo che arrivava rompeva vetri per entrare, che poi non siamo neanche entrati di là, perché c'erano talmente tante avanti che avevano scavalcato il cancello, che dico, dove vado? Inutile, mi vado a mettere in mezzo i colleghi che stanno cercando di entrare. Per me la perquisizione alla Pascoli si poteva fare benissimo, 10 persone. Che cosa è avvenuto tra i poliziotti e chi c'era dentro le scuole, sia la Pascoli che poi soprattutto la Diaz? Il fatto della Diaz l'ho vissuto dopo, fuori, quando vedevo uscire le barelle con le persone ferite. Ho anche pensato che ci sarà stata una reazione da parte di quelli che occupavano la scuola, all'inizio come primo acchitto, no? Perché vedere tutte queste persone insanguinate, no? Cioè dico, che cosa è successo? O c'è stata una reazione o c'è stato un abuso, cioè, ho pensato. Alla Pascoli quando io sono arrivato, già i piani erano pieni di poliziotti, erano già pieni di colleghi. Non c'era un pianerotto, non c'era un gradino, che non c'era un poliziotto. Io ho deciso la perquisizione alla Pascoli, io me la sono fatta e io sono stato condannato. Lei che scene ha visto all'interno della scuola e poi fuori quando vedeva le persone uscire dalla Diaz? All'interno della Pascoli non è stato tolto un capello a nessuno, non è stato toccata una persona. Noi eravamo, ripeto, eravamo gli ultimi arrivati. Se qualche squadra è entrata prima, che ha rotto i computer, si è portata via qualcosa, questo non lo so, perché noi quando siamo entrati i computer stavano già per terra, tutti buttati per terra, tavoli per terra, sedie per terra. E c'erano questi ragazzi che stavano tutti quanti in un corridoio. Tant'è vero che io oltre la porta non sono andato, oltre la porta del pianerottolo non sono andato. Qui mi sorge un dubbio, ma è possibile che ci siano stati due tipi di interventi? C'è stato il primo e quando è arrivato il resto, evidentemente gli altri sono scesi. Hanno subito controllato, non c'era nulla da fare, a meno che non ho pensato che abbiano sbagliato scuola, questo lo sto pensando adesso. Dico, non vorrei che questi che sono venuti prima, oggi sto facendo un po' di mente locale alle cose, magari dovevano andare alla Diaz e sono venuto alla Pascoli e poi sono pure riandato alla Diaz, ha capito dottoressa? Non è possibile che si effettua una perquisizione e si lascia perdere tutte e la gente va via, poi arriviamo noi e saliamo noi. Una situazione quindi di grande confusione, dove le regole normali in qualche modo le è sembrato che fossero venute meno? Non ce n'era una, dottoressa, una non c'era. Non ce n'era una. Storielle. Storiacce. Io me ne sono andato, vabbè, me ne sono andato, ma comunque io mi volevo dimettere pure dopo aver avuto l'avviso di garanzia, mi doveva rimettere. Perché? Perché per quanto riguarda le forze dell'ordine, quando arriva un avviso di garanzia e viene rinviato a giudizio, automaticamente, ci sono centinaia di colleghi, dottoressa, centinaia di colleghi ci sono, vengono sospesi, veniamo sospesi, ed è giusto che sia così. Sì. Bene, sui fatti di Genova non c'è stata una sospensione, ne dovrei essere contento, ma anche questo mi ha dato fastidio, io qualche volta lo dicevo in ufficio, ma perché a noi non ci avete sospeso e altri colleghi per cose minori sono stati sospesi? E che spiegazione vi veniva data? Nessuna spiegazione, nulla. È arrabbiato e deluso per tante ragioni Luigi Fazio, uno dei 13 agenti condannati per l'irruzione alla scuola Diaz durante il G8 di Genova. Minima la sua pena, un mese, e questo forse quasi lo amareggia di più perché ha il sapore della beffa, dice, per lui che dopo Genova decise di lasciare la divisa. Non mi riconoscevo più, ha ripetuto nella prima parte dell'intervista. Non si riconosceva in quella polizia dopo quella serata in cui si videro da macelleria messicana, per dirla con l'espressione usata in aula dal funzionario Michelangelo Fournier nel marzo scorso. Guardi, io al primo piano, quando sono arrivato, ho trovato in atto delle colluttazioni che non erano tali. Cioè? Se erano colluttazioni, erano unilaterali. C'erano 4-5 poliziotti che stavano facendo quello che non doveva essere fatto. Cioè, una volta praticamente inertizzati, stavano infierendo sui feriti. Perché non l'ha detto prima questo? Perché il senso d'appartenenza, che può essere anche confuso con omertà, in un momento così difficile non me la sono sentita. Come ho detto prima, queste colluttazioni erano a senso unico, cioè le facevano solamente questi 4-5 energumeni nei confronti di queste persone che ormai erano ridotte in condizioni di non poter reagire. E io a quel punto ho dovuto urlare basta, basta. Mi sono imbattuto una ragazza alta circa 1,80, con un corpo abbastanza mascolino, robusto, probabilmente nordica, che giaceva in una pozza di sangue, ma sangue veramente copioso. La cosa più allarmante è che io ho potuto verificare che c'erano dei grumi che sul momento io ho scambiato per materia cerebrale. E quindi? Quindi la prima cosa che ho fatto, perché il quadro della situazione secondo me era completamente sfuggito di mano, e come lo è stato, se no non ci sarebbe questo processo probabilmente. Ordinate ai miei uomini, dovunque si trovassero tramite la radio, di uscire immediatamente dalla scuola e di chiamare immediatamente personale medico, di fare venire delle ambulanze. Non c'è stato giorno in cui non mi sia associato a questa descrizione, ha ripetuto anche il suo capo, il questore Vincenzo Canterini, che dopo la sentenza ha scritto una lettera ai suoi uomini, e tutti ora rifiuteranno il termine della prescrizione. Senza prove non c'è condanna, commenta secco Gabriel Barone, presidente della corte che ha emesso la sentenza. Nessun teorema, c'erano le prove per condannare anche i capi, l'obiezione di uno dei PM, Enrico Zucca. Rispettiamo l'autorità di questa sentenza, poi vedremo se potremo anche riconoscere autorevolezza a questa sentenza leggendo appunto le motivazioni. Certamente la sentenza è in gran parte una sentenza di assoluzione, non sono stati assolti i vertici della polizia come ho visto scritto sui giornali, sono stati assolti tutti dalle imputazioni più gravi. Diciamo che è una sentenza prevedibile, nel senso che i processi contro i poliziotti ovunque nel mondo hanno spesso questo risultato. E mentre prosegue anche l'ultimo filone processuale sui fatti di Genova, quello che vede indagato l'ex capo della polizia Gianni De Gennaro con l'accusa di aver intorbidito le acque sulla Diaz, si discute di una commissione parlamentare d'inchiesta. Non ci crede però l'ex poliziotto Luigi Fazio. La perquisizione alla Pascoli si poteva fare benissimo, 10 persone. Non si stava entrando in un covo di terroristi lì dove tu il primo che trovi già te l'ammanetti. E invece lì erano quasi 200-300 persone alla Pascoli, con dei funzionari responsabili, due. E insomma la morale è, se andiamo a vedere oggi, io ho deciso la perquisizione alla Pascoli, io me la so fatta e io sono stato condannato. Questo è quello che voi provate all'indomani della sentenza, con le assoluzioni dei vertici della polizia, chi è stato condannato, come si sente? Si sente scaricato? Cioè, più che scaricato no, perché a me, dottoressa, a me non mi serviva l'appoggio del Ministero, come noi. Cioè, a me mi doveva servire l'appoggio del Ministero, io sarei rimasto in polizia. Io sono andato via dalla polizia, che sono andato via deluso. Dico, questa non è la mia polizia. E poi mi venivo un po' emarginato a questo punto, dico io a capo e me ne vado. Io potevo rimanere ancora altri 7-8 anni in polizia. Per come si era avviato il processo, io queste assoluzioni non l'ho mai viste nel procedimento e non l'ho mai viste nelle udienze. La prima volta, vabbè, deluso dall'operatività delle forze dell'ordine, ci penserà la magistratura a fare chiarezza. Non è stata fatta nessuna chiarezza. Sarebbero dovuti essere condannati anche i funzionari? Non dico condanne dirette, ma le condanne di responsabilità, erano loro responsabili, sono loro che mi hanno fatto entrare, sono loro che mi hanno portato là a me. Non è stata una mia iniziativa, non è stata una perquisizione che io ho deciso da solo. E vabbè, uno può dire, ma lei si poteva rifiutare, ma qui si rifiuta quando a me mi si chiama, mi si spiega una cosa e mi si dice faccio, provvedi, io devo capire e ti posso dire no, non la faccio. Ma lì dove? Tutti i funzionari delle squadre mobili, responsabili di Ugico, compresi i prefetti che stavano lì, decidono questa irruzione. Come fa uno come me a pensare, a dire no, io questa perquisizione non la faccio? In mezzo a 700 persone c'erano minimo 20-30 funzionari. Se voi portate il personale in un posto e non spiegate, guardate che qui... Invece non è stato niente di tutto nulla. Questo vi è stato detto? Nulla, non hanno detto, dottoressa, allora, arrivati in questura, sono scesi i funzionari e sono andati su. I funzionari sono scesi, in macchina partiamo, dobbiamo andare a fare una perquisizione delle scuole. Basta, tutto questo è stato, dottoressa. E non vi è stato detto né cosa si cercasse, nulla, né chi... non solo questo, dottoressa, arrivati sul posto... La maggior parte, per esempio, del personale di Roma stava alla Pascoli. Dalla Diaz, che cosa usciva dalla Diaz? Io ho l'impressione che alla Diaz sia successa la stessa cosa che è successa alla Pascoli. Alla Pascoli, secondo me, c'è andato personale abbastanza responsabile. Lei che ha visto le persone uscire dalla Diaz, com'erano conciate? Le persone che ho visto uscire... parecchie persone, qualcuno che aveva la ferita più grave... si riusciva a vedere il sangue sul volto oppure sugli indumenti. Cioè io a vedere uscire le persone dalla, dalla scuola Diaz, ho pensato di quel qua, può essere che abbiano fatto in quel momento l'irruzione giusta, che abbiano preso quelli che i Black Bloc, quelli che quei giorni hanno messo a ferro e fuoco, insomma, Genova. E invece, beh, poi alla fine si viene a sapere che non erano loro. E beh, dottore, uno come me ci resta male, cioè, è un boccone che io non riesco a ingoiare, è amaro. Molte persone dicono, mi sembra di capire che lei sia d'accordo, che sul fatto che quella sera ci sia stata una pagina molto buia della storia italiana. Secondo lei sarebbe necessaria una commissione d'inchiesta? Molti la chiedono. Dagli anni 70 le commissioni d'inchiesta per dei fatti gravi in Italia non hanno portato a nulla. Io non ci credo, dottore, non ci credo.